a quello perché sono malato. Ma prima fumava un bene. Sì, a voglia, si fumava anche già si fumava da solo alto. Quello già è vero. Finita anni là. Già se lo ricorda, voglia. L'importante è quello, che ne abbia finita un po'. Sì, quello sì, la verità è. Hai visto come è cambiato? E da parecchio tempo non fuma niente, né beve né niente, è tranquilla però. Adesso sente i profumi, prima nulla, oh. Adesso tu ti stai muovendo, la birra sua è quella tua, usi. Non ho capito già, dimmi, abbassa l'eco. Ho detto, adesso ti bevi anche la birra che non bevi lì. Beh, quello sì, se la giovella sì, se no no. Non è che mi va a buffare, no? La verità si ricca. Grazie a Dio ce l'ho, ce lo sai, purtroppo è così, c'è l'incarico, quindi a un certo punto non fa, capito, non è come prima che prima, io lei per fatti suoi, per fatti miei, non è più come, non è, purtroppo siamo fregati, anzi sono fregato più che altro. O vai di prendere lì, devi prendere da me, il discorso è quello lì. Hai abbassato l'imbriaghiera, però... Avete parlato in due. Ho detto, la bicicletta brutta è rapida. Pazienza, non so che ti dica io, a volte capita. Sì, tu hai abbassato l'imbriaghiera, però molto vorrebbe aver fatto. Bisogna farla ogni tanto, guarda, quando ci sono i soldi bisogna comprarle e farla. Sì. Ci vuole la birra, è buona. A me già mi piace la verità, la birra, ogni tanto. Io la bevo più d'estate, ma d'inverno non c'è buona la verità, ma... Bisogna regolarsi a un certo punto, quindi piano piano te la bevi eccetera eccetera, a parte ti scalda pure, non è inutile bere vino, diceva quello, meglio bere la birra più leggera eccetera eccetera, capito il discorso è quello lì. Quando lavori non bevi così, se no fare cose si leva a ridursi. Non ho capito l'altro. Ho detto, quando bevi, cioè quando lavori non bevi, non tocchi niente. Beh certo, ma ce la fai quando lavoro e bevo, ma sei scemo, cazzo. Sai cosa parte ci scendo dal tetto, sei matto. Quando ho finito di bere, vado e bevo la birra. Sempre fatto così, la verità. Da 40 anni a questa parte, grazie a Dio. E sono tranquillo, e tu ci andresti a portare una bombola a casa bevuto, penso di no, a quinto piano. Se no ti fa la capaterra, come ti induce i bevi, magari c'è in connessione di un microfono a barre dolci, cosa? Appunto per quello, il discorso è quello lì. No, io l'alcol adesso non è più come prima. Prima mi bevevo la birra, ero un pochettino già. Adesso mi bevo la birra, non mi fa niente. Ma proprio zero, no, non mi imbriaccheggia più me. Se stai lavorando, la birra non ti fa niente, lo sai anche tu. Perché la birra in pratica, quando tu la bevi, un bicchiere, cioè anche una bottiglia per dire, stai lavorando, la fai in sudore, il discorso è quello lì, quello ti voglio spiegare a un certo punto. Finché sei in movimento, sei tranquillo, invece quando sei fermo, non c'è la macchina di girare da un solo lato, perché ti forma gas, capito? A parte il resto, vabbè, comunque sia, già mi hai capito. No, vabbè, per il tanto non puoi bere lo stesso, perché ti fa sudare la fin fine. Appunto, ci sei arrivato, visto lei. Quindi, la bevo qua e basta, no, non è bevo di altre parti, ma manco per sogno. Non ti fa solo sudare, ti fa venire a fare la pipì, se devi stare brutta, vendi in maglia. Anche quello c'è. Poi se sei in giro come ti fa? Appunto, no, devi bere acqua e basta, anche perché no, non te lo puoi permettere, visto il travaglio pesante. Si ha zincubiane, da voi devi farti zincubiane. Ti voglio vedere. Com'è il club che si è facendo? E noi ne abbiamo tanti perché gli altri si rifiutano di portargliele. E quindi se ti dà per ripartire tu? Sì, quasi tutte. Non tutte, però molte. Si so aini. Oppure ho notato che ci sei. Supplemento c'è. O se no, molti ti vengono a pigliati raioso. No, se tu fai devi essere servito. Non so che per operaio è pesante, però è così. Io mi ricordo che lo facevo gratis, proprio portavamo le spese a domicilio gratis. Sì, quello è sbagliato. Quello è sbagliato perché la consegna bisogna farcela pagare, poco però bisogna farcelo pagare. Quello è proprio sbagliato, per quello che le cose poi vanno male. E adesso che non ci sono io si fanno pagare ogni 3 cartoni 5 euro e l'acqua ogni casa 1 euro in più. Caterina fanno 20 case d'acqua, lo si rubiano, finisce a ragazzi. E non è giusto, ciao Lu, non è giusto che ribalo operai, almeno una tariffa bisogna pagare. Cribalo operai, cazzo, ma che cosa? Una biglia da barucuro, no. Hanno fatto, ma ancora niente, impara. Avanti Lu. Sì, mi sono appena arrivato, un attimino mi ci stavo a letto. Già ok, non c'è problema. Hanno fatto non bene, no, già di più hanno fatto anche l'agente, la piglia del gruppo a facchina. Può esserci uno che ha bisogno, può esserci, non è che tu vai e mi pigli 20-30 gatti, ma che cazzo devi dire, cioè, scusando la frase, no, non mi sembra giusto la cosa. Ma la vuoi una cosa, ne vuoi 23, se la paghi, che non sono i facchini due l'altro. Adesso al massimo sono 5 casse, devi pagare 1 euro a cassa. Sì, come 5 casse? Se ti ordino un po' non me li butti. No, 5 casse alla volta al massimo, 5 casse alla volta. Due porti, non le portano più, ma l'altro mio collega che sta sostituito da me. Tanto non ce ne sono più spese come c'è la conoscitù, perché la conoscitù era gratis. Ma si paga e si offende di mano. Ma non è fatto bene a farli pagare a niente, perché la gente ci approfitta troppo delle vette. Ma mangia non le facevi? Sì, le facevo, specialmente a Natale che eravamo le bustarelle, anche con 50 euro, 60 euro. Beh, amo anche un misto. Però ero un turano che la regalavo in Pisa, che mi dava 60 euro, le portavo la spesa tutt'ora e non mi dava una lira. Ed era ammassata, non ti guardo, sempre al settimo piano. E vabbè, però è accento il buon cuore, Natale e via, dai, sono tutta zitto. Ah, ho manco visto. Un anno mi sono ammalato a Natale, il periodo di Natale mi sono ammalato perché c'è una febbre alta. Mi ha sostituito il mio collega, si è abbigliato tutte le facce che mi dovevo prendere io, che ho lavorato tutto l'anno. Vabbè, cosa ne fa oggi? Sia così, No, non è giusto, perché se ho lavorato tutta l'ora devo prendere quello le mani, no? Mi tu mi fatti due lì. Lo so, però purtroppo non hai travagliato due, è un casino, cosa c'è? Cioè, dopo non li puoi dire manco di dirle a coe, a me li dai, cioè. No, io infatti non gli ho detto nulla, ma non è giusto. Sono passati gli stipendi, c'era un periodo che mi facevano un altro stipendio a Natale, lo sai, adesso no, ultimamente no, ma c'era un periodo che mi dava un bel rimarcio. Eppure io anni fa facevo più di stipendio, c'è più di mancia che di stipendio, avanti da di nulla. Ma la macchinetta per sempre giocare, macchinette, sono diventato in ferraglia, sono diventato delle macchinette. Non si può giocare, no? Io mi ricordo che ti guardato, che ci ha chiesto la busta, avevi tutta la busta di spicciole, tu meglio avevi visto, con 2 euro mi fa. Ah, sì, ma adesso le macchinette no, non stanno più giocando. Ho avuto visto, perché poi sì che giochi 1 euro, no, non succede nulla, ma io ho visto gente che si gioca con sti pizzi. Ma infatti, Oh. Si è drumita, sicuramente prende goda. Oh, yeah. Non c'è più. Questo goda, pa. Sai cos'è? Cosa tu? Mi disturbo appena. Ma da me? No, da me, quando mollo la portante. E cosa fa? Deve essere i ripetitori buttinosi che mi sono in zona. E dove sono i ripetitori lì? Io già ne ho vicino a casa, ma c'è un metro. Ce n'è uno nella strada Roma che va a morte, lì un bel mano. Ce ne sono 2 o 3 sopra il tetto del palazzo dove abita Gabino, il cognato di Bulldozer. E i nocchi vengono il muro. C'è il grattacielo mi qua. Eccolo, già è già un po' più su da. Sì, ogni tanto perché scarica strana. Oh, anche al televisore? No, al televisore no, però. No, lo sento qua, soprattutto con questo baracchino, con l'altro no. L'altro è selettivo, no, non fa del casino, con questo qua un po' di più. Io bisogna che me li faccia vedere questi televisori, ma se devo comprare il decoder o no, perché se devo comprare il decoder lo compro, perché se no poi all'ultimo non lascia più di... Ciucucciù. Perché se con questo non sei comprato? Ciucucciù, ma io il decoder comprare almeno. Aspetta, avete parlato in due, dimmi, Gianni. Come devo fare per sapere se devo comprare il decoder dal televisore? Settembre 2021 tutti i televisori in pratica sono solo DVD B3, anzi no, B3, DVB T2 per sapere, sono per essere chiari, ma comunque sia, sei fregato, non vedi niente, quindi vedi di comprarti un bel televisore come si deve, c'è uno a 99 euro, l'altro giorno ho visto i giorni, a un certo punto, a meno che non ti pigli uno di quelli smart TV come ce l'ho io, c'è un'altra cosa, state di Italia e sei a posto. Ma sono gli unici così da settembre, la verità, da 21 settembre per esattezza. Allora io ce l'ho già per lui, però c'ho quello di cucina che ce l'ho roba di 10 anni, quello che ha praticamente aggiustato tutto. E ho capito, comunque sia, è DVB T2, capito? Se è satellitare è meglio, la verità, che altra cosa è satellitare, e sei a posto. Camarada. Oh Gianni, ma tu la c'è la smart TV 4K, non è in 4K, stai attento. Aspetta, non ho capito nulla, sei troppo forte, dimmi. Sto dicendo a Gianni, se c'è la smart TV in 4K, se c'è la smart TV normale. Hai capito, Gianni? Dimmi. Perché ho baciato la TV che stavo guardando la partita. Ti ho detto, se hai lo Smart TV in 4K o se hai comprato lo Smart TV normale. Ah, non lo so, non me ne intendo io. C'ha HD, Full HD, eccetera, eccetera. C'è tutta la roba, c'ha il 3D, c'ha, si può entrare computer, la televisione, puoi metterti il film, guardarti il film, tutte queste cose qua. Non c'entra niente, guarda quello che c'ho qua io, che è un 26 pollici, un HDMI, non c'entra niente. non è in 4K ti deve comprare lo speakone, ok? Uno smart TV che ho io l'ho comprato in 4K, 3D, 4K, tutto, completo di tutto, ok? Quindi guardati le istruzioni, guardati il manuale, se in 4K va bene, altrimenti no. Ma da che cosa te ne accorgi? Io so che bisogna andare su un canale particolare, per controllare. No, guardati il manuale, quello che hai comprato, e c'è scritto se in 4K 3D. Perché se hai comprato lo smart TV senza quelle opzioni, allora ti devi comprare le cose all'esterno, capito? Quello già lo so, non cambio il televisore, ma cioè è un televisore grande quello che c'è in sala, già l'hai visto. Come il mio, guarda il mio, poi ho qua, c'ho già l'HDMI che non è in 4K, è già inserito al decoder esterno, capito? Un DV3, quindi questo potrebbe anche andare per qua per la sala radio. Quello del salone è già abilitato, ad esempio quello che c'è in camera ha letto mia figlia alla station 4K, la Samsung, un 28 pollici, e quello che io però c'è in camera da letto che è uguale, questo non è in 4K, quindi anche lì devo mettere il lettore. Sarà un casino, già, sarà un casino. In ogni caso conviene comprare il decoder anziché cambiare la televisione, su questo non ci piove. Dai, mi sto guardando la partita, ci sentiamo dopo. Allora, questo che ho io, questa H che adesso mi vedo la scheda, vediamo un po', HKTV 5534, TV LED UHD 4K Smart, Android. Esatto, quello va bene, quello non c'è bisogno del decoder. Sì, questo qua, vabbè, c'ha 2 anni e mezzo di vita. Cioè, 2 anni e mezzo è nuovo, nuovo di pacca. Cioè, per comando un po' usurato, che se ne frega. Cioè, uno di questi giorni l'ho smonto, questo gli hanno messo un isolante sopra, c'è un po' di colla, ma quello lo smonto e... come si dice... e con lo sgrassato e glielo stacco. E poi c'è l'altro è sfumante. Sfumante HD. Vabbè, è meglio l'altro sfumante HD allora. Sì, deve essere così. Altrimenti ci vuole il decoder esterno, eh. Va bene, riprendete voi che io sto guardando la partita, eh. Avanti, Antonio, riprendito. Ecco, comunque sia, ci vuole DVB-T2 in pratica. Su T3, il discorso è quello. È a posto. In pratica sarebbe vabbè, K4, come voglio calcolare gli altri, quello che è. Basta avere quello, si vedono tutti i canali in HD, a partire dal canale 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, eccetera, eccetera. Andando avanti. Tutti i canali in chiaro, da canali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi c'è da questa videolina, eccetera, eccetera, 3G, quelli che non sono stati in pratica in HD, che sono trasferiti in HD, spariscono in automatico, il discorso è quello, che sia chiaro, il discorso è sia chiaro, spariscono tutti, quindi nessuno si deve lamentare. Qualsiasi persona che ti chiede di fargli vedere 3G, antenna 1, eccetera, eccetera, non te ne fotte niente. Che si organizzino e se la prendono in culo, il discorso è quello lì. Che sia chiaro. Sono quelle. E quindi bisogna mantenere a un certo punto. Chi non le mantiene se la piglia in culo non deve stare. 5 ore in cosa dice Vittore, lo sai come fanno i vecchietti, no? Per risparmiare a un certo punto, quindi nuovo, lascia perdere qualsiasi tipo di ricevitore da sincronizzare, se la troncano in culo. Accuditi che cotto. No, è la verità, non è così che è cotto, è la verità. Purtroppo è così. Sai cosa fa? Per salire, esce in pratica il segnale, con analogico, e poi se la, cioè, digitale, normale, facciamo così. e se va a pigliare con te, capito? Devi cazzo comprargli sintonizzare di cosa. Ma scherzando, non sarà, no? Non esiste. Cappa, scusate la l'ingresso a gamba tesa, qua era acceso col volume a zero, ho visto il segnale, ho provato a accendere, a alzare il volume, sono venuto a spegnere che sto accendendo la TV. Buonasera a tutti. Cosa volevo dire? Sì, Antonio, si chiama DVB-T2 e devono decodificare il codec HEVC, mi pare, per essere perfettamente compatibili. Ok, saluto Luca, ho sentito solo Luca, Bombolo, Antonello e chi altro. Comunque saluto tutti, anche quelli d'ascolto. Ciao, vai, che ne so, Luca. Ciao. Bisogna cambiarsi la TV e voi, non siete lì a rompere le balle, cazzo, cambiatevi la TV, perché queste invece non vanno bene, boh, punto, e non se ne parla più, 4K, 4A5. Minimo 4K, adesso è già superato, fra un po' 8K, 16K, tutto a spendere soldi ai danni nostri, va bene, ciao a tutti, buonanotte. Cioè, mettono anche le cose cucciù, metto. A un certo punto sì, definitivo. Tu dubbi? Io farò una nuova partita. Ma siete, avete staccato prima o siete tutta la sera in radio? Perché sono per mangiare, adesso sono qua, c'è la radio, mi trovo perché la Juve, finito prima o poi. Va bene. Quindi vabbè, ritenetevi tutti salutati, adesso vado a collassarmi sulla poltrona e mi accendo la TV. Ciao, ciao a tutti, vai Antonio Bombolo, ciao, buonanotte. Vai Antonio, ciao, sai che scherzo. No, buonanotte Marco. Sono ti scusa. Buona dormita, dai, intanto so che ti addormenti tu, lo sai, quindi a un certo punto, cosa devo dire, buona dormita, e poi ti svegli e dici, ah, mamma mia, ho visto una signorina nuda, esci che esco là, mi sveglio e gli faccio il caffè, che va quello. Sì, perché mi prende così, mi viene il sonno un po' all'ora del film, del primo film, poi però mi passa e spesso passo delle notti insonni, senza dormire, provo a leggere e non riesco a dormire, guardo la TV e non mi viene sonno, e non c'è storia, va bene, ciao, QRT esecutivo, ciao. Tanto Marco, fate la pugnetta e dormi. Ho provato con una pugnetta, due, tre, niente, quattro, cinque, niente. Sì, io ai tempi che furono, mi addormentavo. Provo a farla in 4K, Marco, ritrovirò quando la fai in HD. Marco, ce l'hai DVD di voi, sono io, mi se vuoi, ci do un po' di filmini di quelli spinti. No, no, non c'è bisogno. Sì, già c'ho lettori di tutti i tipi. Ma li produco io i film, cosa mi vuoi dare? Li produco io. Sono Rocco Siffredi, Marco Siffredi. Siffredi. Mi mancano, credo, una ventina di centimetri per arrivare. Marco, quando mancano i centimetri a me pongo un naso, un burro. Ciao, ciao, non riprendo, ciao. Mi voglio lunghi, sì, mi metto lo spezzone sul mangaglio. Se vuoi ti posso uno spezzone di RG58, 2K1000, dipende, un tubo di plastica. Vabbè che siamo in zona rossa. Ciao sì. Allora facciamo a Camille che è più rigido. Però come detto, perché la Camille c'è un po' rimuoto, poi senza morbido, non è che rimane sempre rigido. A meno che non lo lasci al freddo fuori il terrazzino, allora va bene. Che facciamo in zona rossa, era giovettino, fatto la barbi, ognuno qui c'ha il mangaglio suo. Ciao ciao. Ciao Marco, ciao. Vabbè, sono entrato a spegnere la radio, non è che non ho seguito gran parte del discorso perché ero in cucina che stavo guardando un film, quindi rilancio il mic a Claudio, dai, ne approfitto per salutarvi a tutti che faccio QRT esecutivo anch'io, dai. Ciao, ascolto il finale e poi vado via. Buonanotte. Ciao Tizio, io ho fatto il campanino, ho detto guarda la partita, non la vado bene di HD, MI, Antonello, se non prendiamo nulla, tutti i film numeri, allora, Marco, oggi ce l'ho qua, fa girare la ruota, fa girare bene qua a me, non è che fa girare mai che buongiorno. Buona notte a tutti, buon proseguimento, siamo alle 4-5 del mattino, la luna è sotto, non c'è problema, avanti tutti. Ciao, buonanotte a te, ci licenziamo le bruce, avanti già. Ciao Tipo, buonanotte. Ciao a tutti, l'unica volta che sento Antonello bene in radio, Antonello, mi raccomando, mettigli un chiodo, come dice Claudio, puntella, perché stai andando bene. Allora vi vedo bella chiusa immediatamente, me lo vendo, guarda. Se invece così, guarda, me lo vendo subito. L'altra bella chiusa, me lo vendo, guarda, l'ho venduto a cosa? Questa è la seconda volta che mi... Complimenti, vabbè. In realtà i complimenti non ho preso, ma comunque sia, oggi sì. Mi ritengo soddisfatto. Quanto posso dire? È tranquilla. E Laura. E godo. Per cortesia, perché sennò qua andiamo male. Allora fai parte del Luca impazzato anche tu. Buon divertimento, ciao ciao. Non la colpa a te, no? Allora, fate che fare una domanda a Pompone un attimo, allora, vediamo un po' se mi risponde. Pompone, mi senti? Certo, ti sento, dimmi. Allora, una TV, ci sei, ascoltami bene, una TV, accende la spia rossa, vado ad accendere o non accende, cosa può essere? Secondo te cosa può essere? C'è un corto. Quindi a un certo punto c'è un corto. Sicuro che c'è un corto, ma io la scheda la sto controllando, non c'è nessuna anomalia. Se c'è il corto non si parte il fusibile, cosa ne dici? Non è quello, c'è un corto. Fregate, c'è un corto, fotti e dimmi. Non è come il televisore vecchio. Quindi c'è un corto, c'è una anomalia, quindi a un certo punto. Hai capito? Ho capito Romania. C'è una Maria, in pratica. Nello schema, c'è, in pratica. Una Maria. Non ho stampato, c'è qualcosa che non va bene, hai capito? L'ho fatto anche a me una volta. Eh? No, non se ne va il coso, il televisore. Ma tu ti vuoi farci 100 euro, vedi tu? Vabbè, dai, ho fatto la domanda giusto per vedere se... Niente, dai, ordino la scheda nuova. Ma di tu la porta in Romania, vedo che sta Romania. E il vero domani tu, già se ne accorgi anche lui, te lo sto dicendo io. Ma porta la Romania, ma la cazzo porta a fare, cazzo, un 55 pollici in Romania. Sei un lettore, sta a passa appena. Aspetta con il processore, con il processore, dai, così mi senti. Claudio. Oh, dimmi. Ma qua, cortesia, domani a passo lo carichiamo in macchina e mi accompagni. Cazzo, ma ti butto la mia. Che mi alloggi, tanto fai la bravo, caio, a te vado in Romania, guarda. Dai, però Pompone è molto simpatico, a parte gli scherzi adesso, sembra così, ma è simpatico, una volta che ce l'ho perché fare il paraculo, però è la verità, dai. Allora, ti sei... Antonella Cogo, non lo dava, per carità, adesso mi senti bene Antonella, che ho attaccato il processore, io sono vestito, c'è la radio, ce l'ho sotto la C, sto usando 140, ce l'ho sotto la C, la... il Mickey Game, bisogna che la abbasso un po'. Ma poco fa, la verità non capivo proprio da fanculo. troppo alto, allucinante, ma adesso va bene, poi anche se dovrei un pochettino di più, la verità, ma mamma mia, ma poco fa non capivo proprio niente, è troppo alto, in bomba quasi, siccome c'ho quel cavo di Connex 4000, e scusa è quello. Ma questo Connex 4000, tienitelo caro, perché è quello che esce meglio di tutti. Lo so, l'altro lo sai che l'ho dato. A parte gli sembra mi ha preso per il culo tutti, è la verità, per quel baracchino. E invece visto hai, c'avevo ragione io, e quindi a un certo punto, oggi la pagano tutti, quelle le badi di sera, e tutti, non serve a niente, E invece tu è l'unico sei stato che hai detto l'apparecchio di Antonello è meglio che ci sia. E come il là pensa che sia, diceva quella. Ci conferma, ma io l'ho già sentita con la radio, quindi so che funziona bene. Qualche problema c'era, o nel microfono o da qualche parte, nell'alimentatore, ci avete risolto, bene così. Va bene, va bene. Riprendi Antonio, io fedi ma vai dalla battita, la matta ve ne vai. Allora, domani faccio a prendere, lo mettiamo sopra la cappotta della macchina e partiamo in Romania. Era il microfono la verità che non andava. Ho messo quello lì, quello che mi ha dato una persona. La verità sono contentissimo. Adesso per mia comodità l'ho staccato perché va bene questo come apparecchio. L'ho staccato. Perché se no tocca stare in piedi e invece a me mi piace stare pure un mezzo bucato, quindi va bene così. Tutto come sia è meglio l'altro, ma molto più forte. Ti sento molto molto più forte di quella dell'altro. La verità, Ma tocca stare pusato. Meglio, guarda, quello che ti ho dato io, la verità. Lo so che è meglio, no, non lo metto in dubbio, Ale. Già l'hai visto che è meglio, non è che non lo so, no. Però siccome per mia comodità, sto utilizzando questo per mia comodità, capisci? Ma questo esce bene, questo esce veramente bene a tutti. Sì, niente da dire. Vanno bene tutti e due, vanno bene anche l'altro. Adesso sì. Però questo qua lo uso per comodità, perché mi corrico nel letto qua e lo uso per comodità. Capito? L'altro è di uso di giorno, che sono lì seduto e via. Ma gli attacchi ai microfoni ci gli stessi sono? No. E se io ti fai una prolunga? Ma non mi interessa usarlo in questo qua, perché questo già esce bene così, quindi. Allora, per Lucia, fate bubis. Marco, ci sì. Questo lascialo così che va bene, non c'è problema. No, vai, io mi sto guardando la partita, riprendi Antonio. Vabbè, ma questo è la televisore, quindi figurati tu. Che partita c'è stasera? Juventus Sassuolo. Ma schifo sta facendo. Cosa? La Juve schifo sta facendo. Ah, 0-0 ancora. Appunto, tu non mi hai sentito chi fa, tu quale più minci morte che non segna. Sì, avrà segnato, voglio già vedere di chi. Già va bene lo stesso, ancora 0-0, ora segniamo. È tutto il secondo tempo ancora a giocare. Voi avete pareggiato già a Roma, buono. Questa Roma è forte, non è che poi c'è il gioco. Il Pulumina è la forte, infatti è primo, però lo pesce, quindi. Hai sempre detto tu, la palla è rotonda, basta un tiro fatto bene, la partita la vinci. Vince chi fa gol, non è più bravo, no. Vince sempre chi fa gol. Giusto, da giusto chi dice, hanno cominciato un guette e poi recupereggiane, avrei detto. Beh, la Juve era a 7 alle già terza, ci hanno partito a recuperare, quindi adesso era a 6 punti dall'Inter, aveva un punto dall'Inter, quindi già sta giocando, ma il campionato è un po' così, con questo cazzo di Covid ce n'è poca di gente, la Juve mancano tre giocatori, Di Ligi, Cuadraro, Morata, ma vabbè, comunque ci hanno mentre un dentro in tasca a me, va bene. Gianni, vuoi riprendere? Riprendi, dai, io rimango in quel che mi guardo la partita, vai. Sì, mi piace, non ascolto qui, ascoltata. Non ho capito questa sfida, dovevo portare la televisione. E la mania di Antonello? Perché devi stare un po' coprendo? Oh, già, ha detto boh, una cosa, Luca ha capito Romania, ha capito. Non è andato barridì, da. Siete voi. Siamo lì sulla Venomina, la verità. Mamma mia, cosa, Antonio? Ah, che io sono stati morendi. Baracchino, cazzo, microfono, no, il baracchino che te l'ha, eccetera, eccetera. Tutti contro di me, mamma mia, cazzo, io no. Non ho capito nulla, guarda, la verità. Poi cos'era? Il microfono, c'aveva ragione, Claudio, la verità. Non è possibile. Permesso, buonasera. Buonasera, buonasera anche lì. Avanti, avanti, prego, prego. Ma non è possibile. Ma mi sentite anche con questo cicafuso? No, non ci credo. Davvero? Mi sentite? Sì, sì, sì. Ma voglio che ti sentiamo, Marco. 38. Asino cotto. Un portatile dell'anno 3. Mi sento bene a voi, eh. Ciao Lessi, ciao Gianni, ciao Bombolo, ciao Claudio che sta guardando la partita. Portatile Alan 30, questo me l'aveva, mi sembra sia questo, perché ne ho anche un altro là, non so se è questo o l'altro, uno me l'aveva venduto a peso d'oro, Claudio, mi pare tipo un lingotto d'oro, una cosa del genere. Dopo non ci vuole guadagnare lui. Vai, che non è così, sta scherzando, te l'ho regalato. A peso d'oro, bordato in platino, così, in una confezione, in scatolato, con una confezione di Louis Vuitton. Boh. No, non so se è questo qua. Cos'era? 38 quello che mi avevi dato tu, Alan, o di altra marca? Perché ne ho qualcun altro anche, ma ho detto, fra l'argomenta ho preso questo, ho detto, voglio vedere se funziona. Dì che funziona, non è possibile. Ma mi sentite bene anche di modulazione? Ma stai trattando, Marco, c'è 9 più 20, radio 5 e 5, meglio dell'altra. Ti ricordo già la roba, che ne avevo uno o due, ne avevo, non mi ricordo. Non mi ricordo, c'era il padrino. Dalla me. 20 euro te l'avevo dato. Non mi ricordo una cosa del genere. No, forse io, 20 quello di Walter, io forse qualcosa di più, perché mi pare che me l'avessi data tu venduta la staffa, quella staffa di sostegno per appoggiarlo, rilasciarlo sistemato sulla scrivania. Perciò esce bene. Oh, mica questo era fermo da allora, e tu ce l'avevi sempre fermo, ugualmente chissà da quanti altri decenni dentro l'armadio. Sì, la stessa cosa. Sì, bellissima modulazione, no, funzionava benissimo quello, funzionava benissimo, alla grande, sì, è quello lì, sì, tavolata la tappa, forse qualcosa in più, ma una cifra risoria, insomma, così, non mi ricordo, c'era 20, 25, 30, una cosa del genere, è nuovo, molto bello quel portatile, è un bellissimo portatile, funziona molto bene. Va bene, dai, se no capisco un cacchio. Luca, ha segnato la Juve, per farti capire. Un gol strepitoso di Danilo, comunque. Dai, ci sentiamo, io sono qua, che vi sto ascoltando. Vai Marco, ripeto e fai girare. Tu ti sento come, davvero, mi hai detto bene Gianni, come che fossi lì e invece come che sei qui. Pensa un po', alla grande. Sì, qualcosa in più, 80, 100, 150 euro in più, una cosa del genere, una cazzata proprio. pensate ai diamanti, infatti è un oggetto particolare, no, ci ha fatti gli scherzi, è una cosa del genere. E padrino c'aveva il fratello di questo qua, non so se l'ha mai messo in funzione. Oh, sono in alta potenza, guardate gli strumenti se cambia qualcosa. È così in bassa potenza che non so cosa c'è più sotto di potenza, boh, e qua se c'è Lucca più sotto, cos'è? E qua forse alta potenza verso Milano, diciamo. Gianni, come ti sembra che suoni questa matracca? Allora, adesso in questo passaggio si muove bene, mi stavo mancando gli occhiali per guardare, non mi era più tempo. Prova l'altro passaggio. No, provo io che Gianni è troppo vicino. Allora vai da 9.15 a 9.20. C'ha due potenze con la radio, 1,5 watt e 5 watt. Qua è 9.30, non cambia quasi niente. Sa un po', lei si è da te, succede qualcosa? Ma lui, non ti voglio dire niente, sei 9.30, tondo tondo. E allora adesso butto tutti gli altri dalla finestra, dalla porta finestra qua, ci butto tutto e esco con questo qua. Va bene, no, comunque funziona benissimo. Sto uscendo con un amplificatore in Rir Radio da 2 kW però. Vai, scherzo. Comunque sto usando il 747 collegato, così sono in alta potenza è in alta potenza da 40 watt, no, 42 watt, e in bassa potenza va quasi a 20 watt, va quasi a 20 watt col 747, così è in alta potenza. Ma vi ascolto, guarda, c'ha una ricezione, questo altoparlantino, bello, vi sento proprio bene, poi vi vedo belli, cioè Gianni addirittura con gli occhi azzurri, i capelli lunghi, di 30 kg, Antonio lo stesso con una chioma di capelli bionda e la fascia in testa, Alessio con i bermuda e l'orecchino, cioè uno spettacolo, vi vedo veramente, come diceva mio carissimo amico che adesso sono in paradiso, a colori. Vero. Gianni, l'antenna lì, qua vicino a casa. Abbiamo capito, da occhi a piedi. Ciao Marco, anche qua arrivi bene, nelle parti basse, forte e chiaro. Qua fortissimo lo stesso. Dal lato parlante. Cazzo, ma ormai che non mi vedi, dai, che è meglio. Lo vedo che sei appena uscito dalla doccia, già ti vedo con la cappatoio. No, io l'avevo fatta 2 giorni fa, io la faccio di pelle una volta alla settimana, che capito, visto che non faccio nulla la mattina e la sera, chi mi fa fare a lavarmi? Scusa, c'è tra la falcone, un bel casino sarebbe stato. Hai ragione, fai bene. Cazzo che questo giochi ci caffuso, sto giocattolino come funziona. Funziona veramente bene. Dai, va bene, dai, adesso lo posso rimettere nella sua zaffa, questa qua che mi ha dato Claudio, bellissima, a colori anche questa. Riprendi bombolo, l'antenna bombolo allora, che spetta a lui e fa girare. Cappa, guarda, per essere. Anche io ce l'ho un portatile che va, che è una meraviglia, un Intec con processore e tutte cose. Ma funziona veramente bene, ma bene bene bene proprio. Puoi dire Marco Scorpio che Claudio Spagliero non frega mai nessuno, hai visto? No, guarda, tutto possono dirti, ma riguardo le radio, quando dici che funziona, funziona, E tuo padrino è che è un po' più un po' più strano, ma lui è perché è distratto. Distratto vedo. Ciccio. Che maniaco, non posso dire tu sì. Quella 27. Ieri ero tuo padrino, Adesso l'altro mi sono andato a chiappato, vedere che cosa era. L'altro è una Handycom 50S. Più o meno sembra lo stesso, sono un po' diversi, ma secondo me è solamente una questione di marca e leggermente di scatola, perché la radio sembra pressoché uguale. Vabbè, riprendi Alessio, fa girare, dai, che stacco questo qui e provo quell'altro se funziona. Mi è stato un ecco quello che ti ho dato io. Io sono contento un pochettino. Più che altro di sentirlo. Non c'è quanti anni fa arrivato questo portatile a Marco, non ne hai idea tu. E funziona sempre bene. Ne ho anche un altro io uguale a quello, simile a quello, là, dentro l'armadio. E via, via. E ne rigoggia, già ne riprendo. Io avevo un buon importante, va molto bene. Va molto bene quello di giù. Diciamo che consumiamo il martedì. No, quello c'è l'alimentazione a 12, c'è il connettore del. Non è possibile. Non è possibile, che anche tu la pinta accendi, che pare già con Sassuolo. La mazza che te ne vai, se ne ha cosa che ha fatto. La mazza che te ne vai. Questo è il mio gigetto. Ma non ha niente a che fare con la radio che c'ha Marco. Quella c'è una radio micidiale, capite? La tua è molto più bassa rispetto a quella di Marco. Vabbè, però è buono, dai, non è male. Ma stai scherzando, io quello l'ho visto prima di te e prima di Gianni. Capito? Perché lo conosco molto bene, l'ho anche provato, è un bellissimo portatile. A me me lo vorrei provare, ma non mi interessa, ne ho altri portatili dentro l'armadio, tanto rimangono lì, non ne uso per bellezza, cosa. Toccava pure una scrivania, pari vintage portatile. Aiuto, fai piacere, non spendo più di soldi in queste cose. Comunque un bel portatile è questo. Quello di Marco è un po' particolare, è un Alan digitale, 40 canali, molto bello. E funziona molto bene. Avanti, già, ripeti. No, ho già premuto. Esce bene, dai, esce bene. Vado vicino al microfono. 1, 2, 3, prova. Guarda, sto andando solo di antenna, no, non ho attaccato altro, Mi mangia va bene, quella parata. E quello c'è canali sopra, sotto, e tutti di più. Ho già l'avviso stamattina che ce l'aveva preso. C'è un po' un baracchino portatile, lo vedi un scapparatti, mamma mia l'ho messo. Lo conosco, ti ho detto tu. È un semplice baracchino portatile degli anni che furono, come quello di Marco. Sono due baracchini portatili diversi, però quello di Marco ha più radio, forse lui che con le sue corde vocali spinge di più, però lo sento più alto di modulazione. Capito? Va bene. Dai, va bene così. Ammettati che vai in mano. Un baracchino portatile. Baracchino portatile. Scrivi di un baracchino portatile. E ma è il topo di portatile in questo. Perché è completo. Non c'è nessun portatile che ha canali sopra, eccetera, eccetera. Ecco, è tutto completo. Ma in che anno sei nato tu già? Ah? In che anno sei nato? Io un anno prima di te, nel 59. E quindi non hai mai avuto un portatile meglio di quello? E guarda, peccato che non te lo posso dimostrare. Se no ti faccio vedere portatili molto, molto, molto meglio di quello. Addirittura che fanno HF, VHF e UHF, con canali che non te ne dico. E mille sintonie, lascia perdere. Tu conosci quello, ma io che nella radio ho vissuto e vivo in un altro mondo della radio, non sono nel mondo della 27, ti posso garantire che ce n'è superiore al 200% a quello. Io parlo della 27, io ne ho avuto molto quindi di apparati portati tutta la parete, tutto un po'. Ne ho avuto una addirittura che c'è un 80 canali per banda, era micidiale, un ferro pieno, bello, cazzo. Avevo comprato la GBC, non lo ricordo ancora. Quello di adesso non mi ricordo la marca, però ho avuto anche Marco Condo. E quello era veramente quella parata, arrivavo a Santiago, no, per cazzo, perché l'ho portata. Io ne ho avuto uno di portatile, di baracchino portatile, perché di baracchini stiamo parlando. Io mi esprimo nel mio coso, perdonatemi se sono sempre, puntualizzo sempre le stesse cose. Io considero baracchini, gli HF, gli apparati, quindi non confondiamo l'ana con la setta. Perciò il baracchino dispositivi portatili di quell'era lì, dell'era che sono entrati nel radio nel 1973, io avevo della serie Lafayette il 20, praticamente era 20 canali per ogni banda, aveva A, B, C, D, E, F, aveva 6 bande da 20 canali, perché allora penso che non esistesse i 23 canali, li hanno fatti dopo. Ed era una cosa spettacolare, aveva questa antenna in ferro, aveva la valigetta portatile, e si chiamava Lafayette 290, ok, che forse Marco conosce molto bene, che Marco sì, la conosce perché ce l'aveva Pier Giacomo Bomboncino, quello lì, il 200, il 290, quella lì faceva mille cose ed era sempre un portatile, c'era la sua valigetta, per attaccare tre cose, aveva un'antenna in ferro telescopica da 2,75 metri, infatti lo gonto giù. Sì, ma mi ricordo, mangiava la cavalcata a 15 kg, mi ricordo bene, ce l'aveva anche Freccia e Fattigio, ma chi c'erano i giocattoli, lascia aperto, se riconosco io quelli che avevano, perché c'ero io anche in quell'associazione dove c'era Torellai e tutta la banda del gobbo di quelli che sono morti, non hanno niente a che fare, questa era una radio particolare, forse Marco si ricorda. Comunque, vabbè, baracchini portatili, baracchini veicolari, baracchini vintage, baracchini di tutte le maniere ce ne sono, belli e che fanno tantissime cose, ok? Vabbè, poi se parliamo di altre cose, allora stiamo parlando di apparati, stiamo parlando di radio superiore, ma quando parliamo di baracchini, anche i portatili hanno fatto la sua storia. Va bene, ok, Antonio riprende e fai girare, guarda c'è rientrato Marco. Scappa, attento Marco, ci sei? No, Marco non è rientrato ancora. Comunque anche questo già va bene come apparecchio, là. Cioè vabbè come baracchino, là, volevo dire. Io dico apparecchio, ma apparecchio nel senso che, cioè, che lo prendo come baracchino, cioè come apparecchiatura, una cosa del genere, lo dico come apparecchio radio, quello è un apparecchio radio, quello lo puoi chiamare un apparecchio radio, ma non chiamare apparecchio apparato, quello è un apparecchio, tutti sono apparecchi radio, ma da considerare un portatile un apparato è un po' brutto per chi ci ascolta, capito? Apparati vanno definite le macchine HF, come questa che sto usando io, questo è un apparato HF. Poi gli altri per me sono tutti baracchini, che possono essere di mille cose, sempre baracchini sono per me, poi ognuno li può chiamare come vuole, però io ragiono nella mia maniera. A me mi hanno insegnato che gli apparati sono apparati e i baracchini sono baracchini, capito? Ecco perché continuo a insistere su questa storia. Va bene, dai, ognuno poi parla come vuole, non me ne ha fottuta. Avanti Luca. Questa volta la partita, Cassano non forte nel Sassuolo, sta tracciando di brutto, Ustinoggia, avete messo con Sassuolo voi a Bergamo? Ma è fatto un gol, Ronaldo, hai visto? Io l'ho visto. 45 secondi. Devono svegliarsi, devono giocare, perché non ce n'è più squadre materasso, capito? Sono tutte squadre fortissime, squadre che puntano in alto, che vogliono fare la Champion, che vogliono fare la Coppa Italia, vogliono fare l'Europa League, e quindi va bene così, dai. Va bene, Antonello, avanti. Dimmi tutto, sono qua. Beh, ha chiamato l'assistenza in Romania. Ho capito, ho chiamato l'assistenza. Porta le televisioni mie in Romania. Ma vaffanculo. Faccio da un punto. Cazzo che paraculo che sei. Ah no. Vabbè, mi sa che mia pompone quest'anno me la porto al mare. Ci vedi pompone, la marina di sol, subito la fresca, a fiumi, ci vieni? Sì, domani. A picchiare all'aria? No, guarda, sono già a posto io, non ti preoccupare. Sono fatto quello che posso dire. Un'associazione a delinquere. guardare tutti i giorni e basta, il discorso è quello, quindi ci sono... Poppo, ma correndo stavi? Non ho capito, dimmi. Ho detto, se stavi correndo, vai a fanno. Se stavo... Prendere in culo, stavi correndo. No. Ascolta, intanto sono appena di svella, Poppo. Ascolta, apri il culo. Cazzo, ma... E come lo pigli? Accetto tutto, mi apri di svella, correndo, eccetera, eccetera. Ma va a far culo, cazzucca. Già lo sai che tu. Cazzo, Poppo, ma vedi, la apri di svella, sta prendendo per il culo. Boh, ti serve o no? Sì o no, vedi, sì o no, ti serve. Ma scoppiate il culo. Tu che non sai. Boh, cazzo, si boh. Cosa ti serve? C'è qualcosa? Dimmi, io c'ho roba da vendere, ti serve un monopattio elettrico, ti serve? No, no, mi sono aperto il sito, avete sedita. Vibratore ex CB. In pratica che non cordano, quindi a un certo punto basta entrare in quel sito di cosa. E non c'è problema. Ma lo vuoi tu, guarda. Dimmi sito e te lo dico io subito. Ma cosa c'entra se vibratori con monopattino? C'ho un monopattino, poi c'ho un televisore in 4K, 22 pollici, ti interessa? DVD si è inserito, c'ha il... come si chiama? C'ha le cose in 4K, ti interessa? Lo vuoi? Modificato a Colt, 200 euro, lo vuoi? E se è fresco tu? Cazzo, cosa ci sto prendendo? Lascia vedere. Ah, sto prendendo lo Zip, lo vuoi lo scooter? Ascolta, apri il culo. A un certo punto, cosa mi prendi? Mi prendi niente a me. Vabbè, dai, ci compresi. Che è intenso? C'ho uno Zip, c'ho un televisore, sto prendendo. Poi c'ho un baracchino. Poi lo sto prendendo, aspetta. Sto vendendo non mi ricordo adesso, c'ho l'elenco scritto, c'ho un elenco lungo, poi sto vendendo un caricabatterie per telefono, Poppo, ti serve? Una lavatrice, non so, un frigorifero, una cucina, quello che è. Ah, sto vendendo un frigo, adesso non mi hai ricordato, c'ha 10 anni di vita, qualche punto di ruggine, 400 euro, ti interessa? No, ho già preso per 120 euro, la verità sì. Ma non è come questo, questo qua c'ha la scheda Colt dentro. L'ho già preso. Ho già per te, vabbè, riprendi il tuo bombolo. Ehia, comunque già è vero, mi. Sta vendendo sul serio il baracchino. Carità, guarda. Ehia, no, è vero comunque, no, non ti stai dicendo balle. Se no vai sul mercatino, lo vedi. Ah, Poppo, ti interessa? Tu ti mando le foto su WhatsApp. Sto vedendo Rosmetro, Wattmetro, SX200, ti interessa? Ascolta, facciamo scambio. A questo punto, cosa vuoi ti dica io? Non so. Se ne ho più di uno, la verità, cioè di 1500, c'è anche l'altro, quindi figurati tu se mi serve quello, no aspetta, non mi serve niente, ce l'ho, l'ho detto stamattina Antonio, grazie a Dio. Ascolta, guarda, sto prendendo anche uno scippatore di una 48, ti interessa? Uno scippatore? Come si chiama? Lo scippatore, quello per i finali, lo sto prendendo 30 euro. Questo è già detto, questo non è possibile. Cane da pesca, non lo so, c'ho vetrini di telefonini, quelli per protezione dei telefoni, poi c'ho piombi di cane da pesca, ami, poi non so, LCD di computer, non so, portatili, che cane alimentatori di computer, te ne interessano? No, a me mi servono pacciocci, va fa culo. Fa la lista e sono a posto, vai. Sono 12 anni che non trovo, quindi fammi la fila dopo tutti la metti tu che ci pensi, c'è cioè tu e non c'è problema. Noi siamo a posto. Ah, e sono tranquillo. Cazzo da 10 anni, cazzo vai che stava a te va. Ti metto in fonte, casa Dio, quindi 12 anni. Tu dici dove già, lui sta parlando, mica io. 12 anni sono tanti, mamma mia.